se dovessi trovare una macchina dei tifosi della Juve che bucano una ruota, io mi fermo e li aiuto. Massimo, possiamo centrare un posto in Champions. Chiedo a lei, che conduce una trasmissione così credibile e seria. Tutti convocati di Carlo Genta. Quem é bom balanço? Levanta os dois braços e bate na palma, vai! Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Cante o tique-pom! Tique-tique-pom! Essere nella storia sicuramente non ci abbiamo pensato, è ovvio che siamo contentissime, ci tenevamo a fare bene anche questo slam, eravamo la 1, l'anno scorso abbiamo perso in finale, però sul fatto che di essere nella storia sinceramente personalmente io non... Ora non ci penso, poi ci penseremo. Noi pensiamo comunque a giocare i tornei nel miglior modo possibile, cercare di vincere più partite possibile, non è che ora pensiamo a fare il grande slam, almeno no. No, è andato bene questo torneo, ma comunque abbiamo avuto situazioni complicatissime, siamo riuscite a girarle a nostro favore, però non è stato sicuramente semplice, quindi bisognerà continuare e cercare di migliorarsi. Amici ascoltatori, buongiorno. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Canzone non casuale, perché sapete che loro sono Sara Errani e Roberta Vinci, sono le Cichi, perché quando giocano si chiamano l'un l'altra così. Una canzone molto divertente e molto pertinente per queste due ragazze che ogni volta fanno alzare la testa dello sport italiano, gli occhi dello sport italiano dall'orto un po' fangoso delle nostre cose interne, del nostro calcio, per vedere il cielo e l'orizzonte lontano. Terza vittoria, terza pepita infilata nella loro collana dopo Roland Garros e US Open, più che mai coppia regina del doppio. Vittoria dunque nella notte in Australia 6-2, 3-6, 6-2 contro Barty e Casey dell'Acqua. Rita Grande, che ha vinto 5 tornei di doppio e che oggi lo racconta. Ciao Rita, grazie. Ciao, buongiorno a voi. Grandissime le Cichi. Dove sta la forza? Dove sta la forza di questa coppia che ha così, che ha triturato le Williams strada facendo, che non conosce ostacoli e che, insomma, prima abbiamo sentito Sara Errani allontanare con modestia l'ipotesi del grande slam, però insomma i tre più importanti tornei del mondo li hanno vinti, adesso li aspettiamo sull'erba meravigliosa un po' anacronistica di Wimbledon. Eh sì, la loro forza non ce n'è solo una, sono forti in campo perché si completano a mio avviso nel tipo di gioco, cioè Sara è una delle più forti ribattitrici credo del mondo, fa giocare le avversarie in maniera difficile perché risponde a tutti i servizi, fa giocare palle basse, quindi vole difficile all'avversario. Invece Roberta Vinci ha una posizione a rete invidiabile e approfitta, appena Sara mette in difficoltà l'avversaria, approfitta e chiude queste splendide volée da tutte le zone del campo. E poi sono grandi amiche, e nel doppio femminile conta tantissimo, perché non so se tu giochi a tennis, ma quando si gioca il doppio spesso ci si arrabbia col proprio compagno se commette degli errori, si dà un po' la colpa al compagno. E invece loro sono molto amiche, quindi nei momenti no del match cercano di tirarsi su l'un l'altra. Infatti proprio oggi ho visto la finale puntando due sveglie perché era le 6, poi invece c'è stato un ritardo, è iniziato più tardi, però proprio oggi Sara Errani ha avuto un calo, a mio avviso sono 6-2-2 pari, ha sbagliato due palle molto facili per lei, si era un po' così lasciata andare a dei comportamenti un po' pessimistici, se possiamo dire così, e invece lì la sua amica Roberta Vinci è stata lì, l'ha incitata, ha perso il set in un minuto per 6-3 e poi invece al terzo set hanno ritrovato questa armonia che le contraddistingue, perché riescono anche a ridere in campo oltre che a lottare, questa è anche una loro forza, le insomma, cichi. L'amicizia e il gioco. Certo, le cichi sono così, ricevono anche via SMS, pensa, a proposte di matrimonio, cioè un ascoltatore che sono così belle che le sposerei entrambe. Non vale la poligamia. Comunque, Rita, può essere l'erba di Wimbledon un problema per loro per completare questa leggenda, questa che sta diventando una leggenda? Come modo di giocare, intendo. Sì, il problema l'abbiamo visto quest'anno, alle Olimpiadi hanno perso in malo modo contro le sorellone Williams, e purtroppo non sono altissime le nostre ragazze, Sara non riesce a sfruttare il servizio, che sulla superficie, come hai nominato tu, l'erba è un colpo che assolutamente bisogna avere per fare tanti punticini, e va un po' in difficoltà Sara nei game di servizio, se riusciranno a migliorare il servizio credo che possano vincere anche il torneo di Wimbledon. Io convoco tutti i nostri ascoltatori, 800 24 00 24, poi parleremo anche della Juventus scatenata sul mercato, parleremo come ogni venerdì di basket e di tutto quello che volete, però partecipate, siete tutti convocati, insieme a Rita Grande, cui chiedo anche lumi su una finale di singolare maschile che non è quella che avrei voluto vedere, perché Djokovic ha sotterrato Ferrer, mentre Federer ha perso Aurora in partita finita da non molto in 5 set contro Murray. Io avrei voluto vedere questa finale perché sono una tifosa di Federer, e oggi purtroppo la sua età si è sentita in campo, al quinto set si è visto che ha rallentato un po' il suo gioco e Murray, molto più giovane, molto più in forza, ha approfittato. Sarà una finale credo noiosa, se posso dire così, perché entrambi hanno un gioco da fondo campo, sono dei grandi ribattitori da fondo campo, sì. Vedremo poche volée, tanta lotta da fondo campo, e credo sia favorito Djokovic, mi posso sbilanciare. Ma io ti farò per lui, io mi sbilancio quantomeno sul tifo, ti farò sì. Per lui. Senti, invece, per chiudere, Rita, finale femminile in un torneo australiano che ha visto una pioggia di stelle cadenti, da Sharapova a Serena Williams. E la finale che non ti aspetti, come spesso capita oramai, c'è un grande ricambio, una grande mobilità, lasciami dire così, nel tennis femminile. Avremo un'inedita Lina Azarenka. Sì, una Lina che comunque si è allenata tantissimo, ha cambiato allenatore, ha scelto l'allenatore dell'ex numero uno del mondo, Justin Henin, ha dichiarato che si è allenata come non mai, e il lavoro paga, anche Azarenka si sarà allenata, però quest'anno lì veramente è stata una sorpresona di questo torneo, che comunque è sempre il grande slam che riserva più sorprese, perché è un torneo difficile da giocare, cioè molto caldo, e tanto vento, quindi condizioni che cambiano ogni giorno. Non a caso Melbourne è considerata la città delle quattro stagioni, perché in un giorno si verificano tutti, tra pioggia, sole, vento, e sorpresone, qui vedo anch'io favorita Lina come altre mie coetanee e collaboratrici di tennis. Grazie Rita. Grazie a voi. Grazie, alla grazie prossima. Ciao. 800 24 00 24, numero verde per partecipare con noi a tutti i convocati ogni giorno. Strade. Cichi ti aspettano. Siete le Chiquis Girl. Chiquita boom boom. Chiqui. Go. Tutti convocati. Bene bene, oh. Bene bene, 800 24 00 24, numero verde, siete tutti convocati. Mi spiace che molti messaggi sminuiscano l'importanza della disciplina del doppio. Chiaro che il singolare è qualcosa di diverso nei grandi tornei di tennis, però abbiamo la coppia numero uno del tennis femminile in doppio, ce la teniamo stretta. Sara Errani e Roberta Vinci, terzo torneo dello Slam conquistato. Chi si ricorda di Barazzutti e Zugarelli? Io mi ricordo di Barazzutti e Zugarelli, così come di Barazzutti e Panatta o di Zugarelli e Panatta, o di Bertolucci e Zugarelli nel doppio negli anni in cui vincevamo la Coppa Davis. Duilio da Pescara. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Ovviamente grande successo della coppia femminile Errani Vinci. Ma io terrei a sottolineare il buon risultato di Seppi nel torneo maschile, appunto, sì, gli ottavi. Peccato per la sconfitta col francese Charlie è arrivato scarico a quel match, avrebbe potuto regalarsi il quarto di finale, intanto è già 18 del mondo. Sì. Poi volevo sottolineare l'ottimo rendimento dei ragazzi, degli junior italiani, un po' di delusione per Quinti che si è fermato ai quarti, ma un ottimo riscontro per Baldi che è arrivato in semifinale, quindi insomma lasciano ben sperare per una carriera che si annuncia a questo punto luminosa per ma, entrambi. Ma è un momento di sole per il tennis italiano, Duilio, è un momento di sole ed è un momento che insomma è all'insegna del progresso, perché siamo partiti da una situazione maschile ai limiti della disperazione e da comunque da ragazze come Pennetta e Schiavone che hanno cominciato progressivamente a regalarci grandi cose. Adesso abbiamo, lei fa benissimo a sottolinearlo per completare il quadro, abbiamo un movimento che sta producendo dei giocatori come mai forse prima nella storia. Speriamo che si riesca ad andare avanti su questo cammino soleggiato. Paolo, provincia di Ravenna, buongiorno. Buongiorno, piacere di parlare con lei. Reciproco. Volevo fare due rapidissime osservazioni, una di pallavolo. Sì. Io cerco di seguire il più possibile le nostre squadre in Champions, ho visto la sconfitta di Trento e ritengo che il Golden Set sia una bruttissima cosa, perché sfavorisce tantissimo sì. chi deve vincere la seconda partita. Sì, ne abbiamo parlato a tempo debito con Andrea Zorzi, questo Golden Set, ma sa, si introducono tante innovazioni in nome dello spettacolo non sempre coincidono con gli interessi dello sport, no? Certo, e poi un'altra domanda, se lei è così gentile, volevo sapere il suo parere rispetto a quello che potrebbe essere la conseguenza in questo periodo delle vicende bancarie sulla squadra di basket, perché a me mi ha fatto rinnamorare quest'anno, anche se sono tifoso di Sassari, amo moltissimo la grinta di quella squadra lì, della Mensana, che ha fatto delle robe quest'anno incredibili rispetto a quello che si pensava. Sì, intanto mi terrei stretto Sassari, che ormai è stabilmente tra le grandi del campionato italiano, e questa è una vicenda tutta da chiarire, poi proveremo a farlo anche con i nostri soliti ospiti, però io credo che ci saranno conseguenze non da poco, perché c'è una stretta connessione, c'è sempre stata una stretta connessione, una stretta unità di intenti tra lo sponsor e la Mensana Basket, dunque io credo che ci saranno delle conseguenze non da poco. Quali al momento non riesco ad intuire o a vedere, però le conseguenze saranno importanti. Io saluto e ringrazio invece, cambiando argomento, Carlo Laudisa, inviato della Gazzetta dello Sport ed esperto di un mercato che intorno alla Juventus si è acceso come un fiammifero. Ciao Carlo. Ciao, buongiorno a tutti. Prima abbiamo seguito i tuoi tweet. Scrivi che Anelka sta arrivando alla Juventus. Sì, ormai non credo che oggi possa arrivare l'ufficialità, perché appunto si aspetta questo transfer della federazione cinese, ma la notizia è che l'accordo fra la Juve, Anelka e lo Shanghai Shenhua ormai c'è, quindi c'è molta tranquillità sul fronte bianconero sul raggiungimento di questo obiettivo. Vediamo adesso cosa accadrà invece per Lisandro Lopez, su cui c'è ancora una differenza direi sostanziale, perché come sappiamo soprattutto in questi tempi le operazioni nascono in prestito, poi si arenano su questa differenza tra l'obbligo e il diritto di riscatto, che significa che la Juve vorrebbe fare un'operazione che non la impegni a riscattare Lisandro Lopez, mentre invece Lione, che ha scadenza il giocatore tra un anno, vuole garantirsi. Quindi è una situazione più difficile, vedremo se poi Marotta insisterà per il francese o per meglio per l'argentino che gioca in Francia, perché tutto dipende anche dalle eventuali uscite, perché in parallelo, e questa è un'altra notizia che ormai sembra certa, è stato riavviato il dialogo con la Fiorentina dopo i ben noti problemi diplomatici. Sul piatto o Macri o Quagliarella, più il secondo direi. Sì, che, però, sono scesi un po' in disgrazia, che sono comunque scivolati diffuso, in basso nelle preferenze di Conte. Sì. Beh, non dimentichiamo mai che la Juve ieri ha annunciato l'ingaggio di Llorente per l'estate, quindi si profila un ribaltone in cui dovranno cambiare un po' di facce. Da qualche parte si sente addirittura, si legge addirittura di una trattativa, o quantomeno di una idea Balotelli. Oggi Mancini ha detto Balotelli non si muove di qui, anche perché nessuno ce l'ha chiesto. Ma c'è un fondo di verità, perché un sondaggino la Juventus l'ha fatto, ma più che altro per informarsi. Nel frattempo però ha proseguito sulla strada maestra degli affari di cui ho appena parlato. Sì. Fa sempre molto clamore parlare di Balotelli, però appunto Mancini che lo dichiara incedibile, Gagliani che lo dichiara inarrivabile, ci restano altri 6 giorni di mercato. Io non darei mai nulla per scontato, perché comunque il feeling fra il Milan e Balotelli resta intatto, e quindi tutto è possibile nonostante l'enorme differenza fra domanda e offerta. Sì, ma cosa vuole? Toglimi questa curiosità, cosa vuole il Milan? Perché io non riesco a capirlo. Innanzitutto Zaccardo è arrivato a titolo definitivo dal Parma in cambio di Mesbah, che passa al Parma sempre a titolo definitivo, e di Strasser in prestito, e questo è ufficiale. E va bene, Zaccardo arriva, difensore molto esperto. Molto esperto, in là con gli anni, che può essere di immediata utilità ad Allegri. Ma il Milan che cosa cavolo vuole? Cioè, si sente parlare di Drogba, poi di Kakà, poi di Balotelli, però tutti che devono arrivare praticamente in prestito, senza soldi, si va in giro a fare, a fare queste richieste. Ma che cosa vuole realmente il Milan? Perché Balotelli avrebbe un senso, ovviamente, in termini di ricostruzione, è un giocatore che potrebbe spostare davvero gli equilibri. Sai, Kakà e Drogba, due grandissimi giocatori, ma che con questo progetto non c'entrano nulla. Cosa vuole il Milan? Un giaguaro da esibire al guinzaglio, o cerca realmente un giocatore da mettere in attacco? Beh, l'aspetto economico è vincolante, quindi avendo difficoltà a uscire da questo pareggio di bilancio. Tra l'altro non dimentichiamo, in questi giorni c'è anche l'altro paradosso dei legami, anzi legacci della Covid, perché in virtù dell'indebitamento, del forte indebitamento del Milan, ma anche della Juve, dell'Inter, della Roma, del Genovese e del Chievo, a ogni acquisto sul mercato interno deve seguire un aumento di capitale, quindi è un altro freno su cui la Lega di Serie A il 4 febbraio si pronuncerà, proprio per chiedere un ammorbidimento di queste norme. Ed è uno degli esempi di come effettivamente la crisi finanziaria, in questo caso proprio il senso letterale del termine, stia frenando tutto il mercato italiano, perché anche l'Inter ha venduto Schneider, ma ancora fatica a muoversi. Stiamo parlando della Juve, che comunque finora ha totalizzato un acquisto in prestito, quindi il problema è generale. Tornando alla tua domanda sul Milan, io credo che Gagliani vorrebbe tanto, ma non può. Quindi oscilla tra quello che il mercato gli offre, cerca di prendere il meglio al costo più basso, se non possibilmente zero. Quindi, al costo più basso che sia possibilmente zero, vicino allo zero. E quindi è un dramma che sicuramente sta vivendo con il sorriso sulle labbra, ma è lo specchio di questo momentaccio. Certo. Grazie Carlo, buon lavoro. Un saluto, ciao, sempre un piacere. Ciao a tutti. Grazie Carlo Laudisa. Luca da Brescia, buongiorno. Poi parliamo di basket, poi facciamo sentire anche uno scoppiettante Zamparini che ieri sera è intervenuto alla Zanzara, ma questo accadrà dopo la borsa. Prima Luca, buongiorno. Buongiorno, Luca convocato da Brescia, grazie. Grande Luca, grande, tutti convocati. Convocato da Brescia. Ti seguo sempre molto volentieri. Volevo una tua considerazione sul mercato della Juventus, per vedere se sono io che capisco poco di calcio oppure molti hanno la stessa considerazione. Ma vendere Quagliarella adesso ha senso? Cioè, Quagliarella ha segnato 9 reti e ha giocato la metà del tempo di Giovinco. Lo so. E i gol che ha segnato hanno un peso specifico ben diverso da quelli di Giovinco. Lo so. È l'unico in grado in avanti della Juventus di spaccare la partita. Lo a so. Parte Vucinic. A parte Vucinic. Ovviamente. Cioè, io sinceramente prendo una scommessa come Lisandro Lopez o Anelka, che diciamo che faville non l'ha fatta da nessuna parte. Esatto. No, non mi sembra che abbia molto senso. Ma io mi limito a notare, Luca, che comunque Matre e Quagliarella sono grosso modo ai margini delle rotazioni, che i titolari sono Vucinic quando riesce a stare appena appena in piedi e Giovinco che è titolare inamovibile. Evidentemente Conte ha perso fiducia o non vede in questa versione della Juventus Matri e Quagliarella e dunque la conseguenza è questa. Io non sono esattamente della tua opinione. Quagliarella secondo me è un giocatore estremamente importante nelle dinamiche della Juventus, perché ha fantasia, perché è in grado di inventare gol, perché certamente meriterebbe più spazio. Matri è un bravissimo giocatore ma con caratteristiche diverse. Evidentemente alla Juventus non li vogliono più, non ho altre spiegazioni. Prendere Anelka, anche lì lo si prende dalla Cina, giocatore ondivago che ha fatto bene in alcuni frangenti della sua carriera, molto male in altri, e comunque io mi terrei quelli che ho. Poi queste sono considerazioni che bisognerebbe girare all'establishment bianconero. Tutti convocati. Tra poco passiamo a fare due chiacchiere di basket come ogni venerdì, non prima però di aver parlato con Andrea dalla provincia di Varese, che ieri pomeriggio non è riuscito ad intervenire, dunque è stato prontamente riconvocato. 800240024, siete convocati anche tutti voi. Andrea. Buongiorno. Dottor Genta. Dico. Io ieri volevo parlare di calcio, però oggi no. Volevo parlare di tennis. No. Segue la cronaca, però volevo correggere un attimo, perché ieri lei parlava del fatto che ora al posto dei 7 Tour di Armstrong ci sono 7 croci nere. Ma io adesso ancora ufficioso, però ho sentito dire che verranno riassegnati da Guido Rossi all'Inter. Poi non so. Ah, vabbè. Questa non è nuovissima. Lo so, però mi sembrava. Non è nuovissima. Dica. No, per quanto riguarda invece il tennis, io purtroppo non ho potuto vedere la partita, ho visto soltanto l'ultimo set perché ero in pausa pranzo, e devo purtroppo rilevare per l'ennesima volta come il talento tennistico di Murray sia inversamente proporzionale allo spessore umano, visto che a un certo punto ha cercato deliberatamente di colpire Federer in maniera proprio... Sì, Murray è un giocatore di talento, è certamente un giocatore che l'anno scorso si è tolto la scimmia dalla spalla, si è tolto questo complesso di inferiorità nei confronti di Djokovic e di Federer, però insomma veder giocare questa partita capisci quello che è, insomma, quello che è arte contemporanea in movimento e che è Roger Federer e quello che è un semplice tennista molto forte che è appunto Andy Murray. Concordo pienamente. Basta così? Sentiamo Zamparini. Vai, Andrea. No, va bene, grazie. Sentiamo allora Zamparini è intervenuto mercoledì alla Zanzara e ne ha avuto per tutti. A cominciare, abbiamo parlato prima di Kakà. A cominciare da questa idea del Milan ormai tramontata, e sentite cosa ha detto. No, ma non porta neanche vittorie. Se il Real Madrid lo scarta è perché Kakà non è più il Kakà di 10 anni fa. Il Kakà di adesso è un Kakà che deve tornare in Brasile, buono, pieno di soldi, non c'ha più gli stimoli, non c'ha niente. Eccovi serviti dal commendator Zamparini, che ne ha avuto anche per il Palermo, che ha detto che si salva facile, vedremo, e per la Lega, in cui a suo parere siedono 20 deficienti e quindi non ci andrà più. Magari riusciamo a sentirli oggi o se no domani, perché vi ricordo l'appuntamento con il magazine per riepilogare tutti i temi, il meglio e il peggio della settimana dello sport dalle 17 alle 18. Intanto saluto il mio amico coach Dan Peterson. Ciao coach. Ciao Carlo, amici sportivi. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, ti faccio sentire subito una cosa, questo lo conosci. Quindi non proprio molto etanolo, quindi hanno giocato 20, 6 anni, 17 anni. Sai quanti è un time out, io ho ascoltato in vita mia? 3. Ma ascoltavo una figa che mi stava parlando. Gli ho detto a Bianchini se non è vero. si incazzò come una iena di supporto, poi hanno detto ma la che tal figa c'è? E lui dice hai ragione, forse fatto. C'era Pozzecco, meno male che non l'hai mai allenato. Meno male che non l'hai mai allenato, perché nei time out quanti ne ho ascoltati? Zero. Una volta parlavo con una, lui ha detto un'altra cosa, una signorina. Esatto, sì. Però sta andando, se non sbaglio, abbastanza benino lì, sì. Considerando la situazione, ha preso una squadra che aveva perso 6 partite in fila, vinta la prima in trasferta, poi perso in casa, però globalmente parlando... è stato molto intelligente lui prendere Furio Steffei come vice allenatore, quindi ha sistemato le questioni tecniche e lui fa leadership, direttore delle partite eccetera. Secondo me ha avuto un buon fiuto e stasera giocherà nell'anticipo contro una sua vecchia fiamma, cioè Bologna. Coach invece sta sempre stasera Siena, in ambasce per la vicenda MPS, per la vicenda Montepaschi, che è ancora da chiarire quali riflessi avrà sul futuro di Siena, ma presumo importanti. Dopo l'impresa con l'Olympiacos deve mantenere il suo vantaggio 4 vinte e 0 perse, primato in classifica nel suo girone, ospitando il Besiktas. Come la vedi? Guarda, io lo vedo bene, non voglio ielare nessuno, cioè, però Siena è una realtà, cioè proprio uno che parte 4-0 nel top 16 di Eurolega, vincendo anche in trasferto all'Olimpico, stato per citarne uno, anche Fenerbahce per citare un altro. Questa è una squadra seria, molto rapida, molto veloce, molto tecnico, molto tiro, molto duttile, molto versatile, è una squadra veramente forte. Besiktas ovviamente è una squadra di bassissima classifica, cioè quasi prima contro l'ultimo in poche parole, e quindi difficile per Besiktas. Però Siena ha veramente fatto un mini capolavoro quest'anno, lo stanno facendo e lo faranno. Sì, passando al campionato, Milano che ha cambiato quasi tutto, non è un bel segnale questo? Oh, guarda, devo dire questo, mentre noi sappiamo prima, vedere Milano giocare è stato quasi, dico una parola, difficile, angosciante, cioè proprio non sapevi cosa aspettare da un minuto all'altro e avevano le pause spaventose, ok? Noi, Sport Italia, domenica scorsa abbiamo fatto la partita proprio a Caserta e a parte la partenza estremamente negativa, 24-12 dopo un quarto, 27-12 con il tiro da tre da Sergio dopo quasi pochi secondi del secondo quarto, Milano mi ha dato veramente per la prima volta quest'anno l'impressione di avere una squadra solida e di avere una squadra che tutti hanno svolto un compito. E Carlo, la cosa che ha fatto meglio di tutto, che qualche volta l'ho fatto vedere, la difesa di squadra. È la prima volta quest'anno che vedo loro veramente effettuare, anzi hanno vinto con la difesa, gli altri, Caserta ha tirato malissimo, ha tante palle perse, sono caduti nei falli, cioè, hanno letteralmente tolto l'ossigeno alla Caserta con questa ottima difesa di squadra. La prima volta che vedo fare questo. Poi in attacco si può anche sbagliare qualche tiro, però sì, più fluidità in attacco. Le due cose che hanno dato ossigeno a loro, secondo me, ovviamente Green ha dato a tutti la lezione di come si passa la palla. Lui fa un bel passaggio, viene applaudito, l'altro dice beh, faccio anch'io un bel passaggio, sì. Improvvisamente hai un po' di gioco di squadra. E secondo me vedremo anche sempre più ogni partita il ritorno di Radosevic, perché tu sai come il basket oggi, o il tuo pivot è abbastanza rapido e veloce per aiutare sulla il gioco 2, la pick and roll in alto, o non esiste. Cioè, sì, certo. Lui è veloce e rapido, quindi è una squadra, hai detto tu, caro, trasformata, e per la prima volta la vedo veramente la squadra solida. Poi sono i risultati che parlano da qui in poi, però sì, li ho visti molto bene a Caserta. Poi resta da domandarsi perché sia Bremer che Radosevic siano stati fatti andare via alla fine della scorsa stagione, ma questa è un'altra storia. Avellino, ex squadra di Marcus Green, invece prende un, se non una superstar, certamente un giocatore importante a livello europeo come Jakalakovic, che arriva nel nostro campionato. E lui darà a loro tiro da tre, esperienza, trattamento di palla, gioco a due, che lui è il maestro di questo qui, e anche versatilità, sa anche giocare guardia, se loro mettono un playmaker lì accanto a lui, sa anche fare il terminale della situazione. Un ottimo tiro da tre, mancino molto veloce, rapido nell'esecuzione del tiro, quindi un ottimo acquisto per loro. Loro stanno cercando di reagire alla loro situazione, bravi loro. Grazie coach, sentiamo venerdì ciao, prossimo. Carlo. Ciao Carlo, un abbraccio a tutti, ciao a tutti. Ciao, ciao coach Dan Peterson. Tutti convocati. Roberto, we hear that AC Milan have asked to take Balotelli on loan. It's two years, the first question always. Always Balotelli. No, no, it's not true. It's not true. Mario stay here. No. He's definitely staying here. Yeah. We didn't have any request about Mario and other players. Questo avrete riconosciuto, Roberto Mancini che dice nulla di vero tra le risate sul trasferimento di Balotelli, che prenderà un'altra casa evidentemente, visto che ha disdetto la sua di Manchester, non so se è quella che aveva bruciato oppure no, non so se aveva nel frattempo già cambiato, comunque resterà qui, non abbiamo ricevuto nessuna richiesta, uno dei giocatori della Rosa non si muove da Manchester. Matteo, Milano, buongiorno. Buongiorno, salve signor Gente, le faccio anzitutto i complimenti per la trasmissione. Ho chiamato tempo fa su Dopo Inter Napoli, sì. Non so se si ricorda, ma penso di no. Io guardi, la chiamavo semplicemente per fare un'osservazione sulla battuta del ragazzo di Varese che aveva richiamato poco prima, si ricorda, la battutona su Guido Rossi. Sì, quella storia lì del... Esatto, è un peccato che abbiate richiamato un cretino, però giustamente non potevate sapere chi rispondeva, cosa diceva. Io semplicemente volevo fare una segnalazione di questo tipo, perché penso sia molto importante ricordare che tra due giorni c'è un giorno molto importante, ovvero il giorno della memoria, in sì. cui si ricorda ciò che è avvenuto a danno del popolo ebreo, a carico appunto da parte, mi scusi, di sì, lo sappiamo, dei nazisti, un'atrocità. Sì. Io volevo solo dire, penso che se il signor Hitler cambiava soggetti, ovvero se tutto ciò che ha fatto lo faceva agli juventini, il mondo sarebbe un posto migliore. La ringrazio, arrivederci. Io no, io non la ringrazio, perché ha detto una delle cose peggiori che ho mai sentito in questo programma. E anzi, se lei era già intervenuto, io penso che non interverrà mai più in questa trasmissione, in tutti i convocati, con opportune segnalazioni. Antonio D'Alessandria. Buongiorno Gente, è sempre un piacere parlare con lei. A parte qualche celebrolenso come quello di prima che entri in trasmissione. Sì, è stato gentile con la definizione. Vabbè. Parlando d'altro, volevo entrare un po' sul discorso del calciomercato. Mi sembra l'apologia del nulla, nel senso che premetto che sono un tifoso interista, quindi non ho il posto di che godere, ma ad esempio il Milan un giorno annuncia l'acquisto di Tizio, il giorno dopo lo smentisce di Caio e via dicendo, quindi non so se è la mancanza di soldi che crea mancanza di idee oppure il processo inverso, ma non mi ci ritrovo, qual è la soluzione. Ma la questione è che il mercato è diventato causa mancanza di soldi, è diventato causa mancanza di soldi qualcosa per addetti ai lavori, ne parlavamo prima, ne parleremo certamente anche domani, per addetti ai lavori, per cultori della materia, per gente che va a vedere su YouTube cosa combinano giocatori lontani e sconosciuti, perché insomma leggiamo qualche lampo, qualche grande nome, che poi sono sempre quei tre o quattro che poi non arrivano, perché vuoi il fiscalista, vuoi ovviamente la mancanza di quattrini, vuoi la mancanza di accordi, vuoi il fatto che chi ha i soldi non ha nessun interesse a rimetterceli, come nel caso di Kakà, il Real Madrid, che l'ha pagato una montagna di quattrini, non ha interesse a prestarlo a titolo gratuito al Milan, e dunque si ruota intorno a questi nomi. Sotto c'è una valanga di giocatori che arrivano per lo più dall'estero e che non conosciamo nella maggior parte dei casi, quindi è profondamente cambiato. Sì, ci vuole fantasia, ci vuole intuizione, ci vuole una bella dose di culo anche per andare a prendere giocatori bravi, poi alcuni lo sono davvero, altri sono dei pacchi. Il mercato è diventato questo, quindi è qualcosa di profondamente diverso. Però io voglio tornare a parlare di basket con Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buondì. Buondì, senti, prima una domanda difficile, non so se sai darmi una risposta, io non ce l'ho ancora. Quali riflessi può avere il caso Montepaschi su Siena Basket in prospettiva, secondo te? Hai un'idea di questo? No, non ho un'idea, ovviamente, perché sappiamo molto poco. Sappiamo che verso la fine dell'anno l'indagine, se ti riferisci all'indagine, e presumo di sì, era a una fase di acquisizione di documenti. Non abbiamo ancora sentito nulla da parte di chi coordina le indagini, cioè la Procura della Repubblica, ma solo qualche cosa dalla Guardia di Finanza. Quindi sarebbe onestamente prematuro provare a fare delle proiezioni. Di certo è un qualche cosa che può avere delle ripercussioni. Che può avere delle ripercussioni per il futuro di Siena, anche per la stretta connessione, la stretta Scusa, empatia. Ma allora presumo che tu ti riferissi invece alla vicenda di questi giorni, quella avrà, penso onestamente, sicuramente delle ripercussioni dirette, come minimo, al di là del caso giudiziario, certo. nel momento in cui sarà un po' più difficile, come dire, destinare troppe o tante o molte risorse allo sport in generale. Certo. Senti, andando invece a parlare di NBA, è bello sapere che una squadra come Chicago Bulls affida gli ultimi palloni al nostro ragazzo, a Belinelli, che ha parlato anche così, sentiamolo. Soprattutto nella partita di ieri contro Detroit è stato, diciamo, un 50-50, nel senso che sicuramente Giacchino ha fatto una cosa incredibile, ha salvato una palla, diciamo, quasi persa, e io sicuramente non ho mollato, ho comunque cercato di riprendere la palla, l'ho presa e ho fatto quel canestro, insomma. Quindi è stato, diciamo, sicuramente un canestro importante per noi, ma diciamo che la maggior parte comunque del merito va dato sicuramente a Giacchino. Siamo un bel gruppo, una squadra comunque che ci tiene, che vuole vincere, certo. E queste sono le cose che mi rimangono. Poi soprattutto fare comunque il canestro della vittoria per vestendo comunque questa maglia di Chicago Bulls, soprattutto contro Boston, sicuramente è una cosa che non mi scorderò mai. Mi sento importante, ma sempre comunque stando coi piedi per terra, nel senso che magari all'inizio non è stato, diciamo, per me semplice, però dopo comunque ho avuto la possibilità di far vedere, di rendermi utile a questa squadra, ed è quello che sto facendo, insomma. Così ieri Belinelli a Sky, Flavio Tranquillo. È stato bravissimo in questa stagione a ritagliarsi tutto quello che poteva e a sfruttare ogni singola occasione. Guarda, io penso che i due canestri, gli ultimi due che ha segnato per risolvere le partite, siano un po' il microcosmo del macrocosmo della sua stagione. Sì. La prima volta è stata un'azione che non si è sviluppata onestamente benissimo, e lui si è trovato con questa palla tutto storto, senza essere necessariamente il bersaglio primo di questo gioco, che aveva fatto un mezzo morto, e ha segnato, molto difficile. La seconda volta, come ricordava lui, il gioco invece era per lui, ha fatto un tiro complesso, perché quando sei bersaglio primario lo capiscono anche gli avversari, e però ancora una volta, invece che pensare che aveva sbagliato il tiro, è rimasto lì con la testa e ha segnato un altro tiro fuori equilibrio. Cosa significa? Che si è fatto trovare pronto quando anche un pochino la sorte gli ha dato l'occasione. Che è la cosa più difficile, perché la sorte non la comandi, ma sai che prima o poi passa. Sì. Farsi trovare pronto dipende da te, e devi essere pronto in quel momento, non un attimo prima, non un attimo dopo. Lui lo è stato su quei due palloni e in generale sull'infortunio di Hamilton, e per me quei due palloni vanno dentro, anche perché, come posso dire, se lo merita, si è aiutato. Sì, non c'è dubbio. Flavio, ti ringrazio, ti saluto e ti abbraccio. Grazie. Saluti. Ciao, grazie a Flavio Tranquillo, con cui chiudiamo il nostro programma, ringraziando Franco Piantanida, che ne è l'autore, Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo domani pomeriggio con il magazine dalle 17 alle 18. Tutti convocati anche lì, naturalmente. Ciao.